Signore Gesù, io leggo la tua parola e divento triste. Figlioli miei, mi dice Giovanni nella sua prima lettera, al capitolo 4, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio, chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Mi viene tristezza e mi verrebbe quasi da piangere, perché è tutta la vita che io lo sento dire, io lo proclamo. È tutta la vita che nelle nostre parrocchie si fanno catechesi su queste parole. E ho sentito tanta gente dissertare esegeticamente o esperienzialmente anche su queste parole. E poi vedo quanto siamo indietro. Mi consola solamente un po' guardare i tuoi santi. Mi vengono in mente alcuni giganti della santità, quanti ce n'è, quanti di cui leggendo le scritture, le loro parole, le loro lettere sono ammirato. E allora nasce una preghiera in me. Signore Gesù, manda il tuo Spirito, perché faccia di me, faccia del nostro popolo cristiano, della gente ripiena della potenza dello Spirito Santo, ripiena della potenza di questa parola, per non parlarne più, ma per goderne, per averla dentro, per viverla. Perché mai, come in questo caso, la tua parola mi giudica, ci giudica, e io ho vergogna a proclamarla se tu non mi aiuti a viverla.